Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un cantautore e scrittore che ha fatto la storia della musica italiana e non solo. È nato nel 1940 a Modena e ha passato l'infanzia a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano. Ha studiato a Modena, ha fatto l'istitutore, il giornalista, il cantante e il chitarrista, prima nelle Balere, poi con gruppi come Nomadi ed Equipe 84. Il suo debutto ufficiale risale al 1967 con l'LP Folk Beat numero 1. Da lì una carriera immensa con oltre 20 album. È uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con 4 targhe, 2 premi e un premio Le Parole della Musica, cui si aggiungono vari altri premi e riconoscimenti. Il pubblico lo ha amato quanto la critica, fino all'ultima Thule. Novembre 2012 è l'ultimo album perché lui decide di non volere più né incidere nuovi album né fare concerti, ritirandosi dalla carriera musicale e dedicandosi interamente a quella di scrittore. Croniche pafaniche, Vacca d'un cane, La legge del bar e altre comiche, Cittanova blues, i polizieschi scritti con Loriano Machiavelli, Il dizionario delle cose perdute, i racconti di L'uomo che reggeva il cielo, di Un matrimonio, un funerale per non parlare del gatto, ma anche Il dizionario del dialetto di Pavana, una bibliografia che diventa sempre più importante. Questo fine settimana Porretta Terme, in provincia di Bologna, lo festeggia in una 3 giorni a lui dedicata a sostegno di Emergency. La nostra voce in scena di oggi è ovviamente Francesco Guccini e gli abbiamo chiesto come si sente di fronte a questo grande omaggio. Ma non lo so, da un lato mi fa anche piacere, ovviamente. Vuol dire che questo lavoro qualche cosa ha fatto, qualche cosa, non dico è servito, ma insomma ha segnato in qualche modo qualcosa, no? Il suo lavoro che ha segnato qualcosa nell'immaginario, nella cultura e che lei mette anche al servizio di una causa importante, sono due cose strettamente legate e che sono un simbolo di grande ricchezza. Ma io spero che questo possa servire anche parallelamente a questa grande causa di Emergency, che è molto importante. Tra l'altro conosco Gino Strada personalmente, tra l'altro ci assomigliamo anche un pochino. È vero? Sì, 2 volte mi hanno scambiato per lui, ringraziandomi. Guardate, deve essere un equivoco, io non ho fatto niente di quello che mi dite. Insomma. E qui a parte questo, insomma, che è un aneddoto. Però quello che sta facendo Emergency è molto molto importante, è molto significativo e anche, voglio dire, di ammirare queste persone che eroicamente, è il caso di dirlo, svolgono il loro compito in territori funestati da guerre e tragedie di questo genere. Io che ho doppiato 3 volte Capoora, che ho navigato 7 volte in 7 mari, ho visto mostri ed animali rari, l'anfesi bene, le sirene, l'unicorno. La 3 giorni che si appunto la 3 giorni di Porretta Terme avrà 3 temi, libri, musica e cinema, e che vuol dire che, come sappiamo, lei ha fatto tanto e in tanti campi di espressione, nel presente e nel passato. La musica, che è quella che ci ha tenuto compagnia, i libri, quello a cui preferisce dedicarsi ora, e il cinema come mai? No, il cinema non sono i filmati che ho fatto qua e là, come facendo dei cameo, come delle comparsate, diciamo, non c'entra niente. Sono documentari che riguardano l'attività musicale più che altro, e quindi non c'entra col cinema, con il film che ho fatto con Pieraccioni, con Ligabue, insomma. Questi sono documentari, fra cui l'ultimo girato in occasione del disco L'ultima tour, e questo, insomma. Per il resto i libri sono un'antica. Io quando ero ragazzino, da grande, sognavo di fare lo scrittore, e l'ho fatto probabilmente perché avevo già conosciuto quel cantautore, mi hanno pubblicato il primo libro, che però è andato bene, poi ho continuato a scrivere libri e ne ho già scritti tanti, a dire la verità. E così, e poi le canzoni, che però non saranno cantate da me, ma da altri personaggi, fra cui i musici, cioè i miei ex musicisti, canta Juan Carlos Biondini, il chitarrista che mi accompagna dal 75, insomma, e alcuni catalani che hanno tradotto in catalano e in castigliano certe mie canzoni. Questo mi ha molto incuriosito, il suo repertorio in lingua spagnola, nelle lingue spagnole. Che effetto le fa? Ma dunque, li ho già sentiti, e non solo a Barcellona ultimamente, ma anche in Italia. Sono venuti un 1° maggio a Firenze, ho già sentito questa Silvia Comes cantare la locomotiva ed è stato molto piacevole, dire la verità, mi è piaciuto molto. Ma a Barcellona ho sentito anche le mie canzoni tradotte in maltese, non ho capito assolutamente niente, e in maori addirittura, il maori è una lingua che assolutamente ignoro in maniera più assoluta. E non so dire che, voglio dire, qualcosa avranno tradotto, ma non so dire come. Ecco. Soprattutto sul maori. Catalano è più facile l'approccio. Sul maori si deve fidare. E mi devo fidare per forza, sì. Io di maori, oltre alla famosa H, credo che si chiami H, quella dei rugbisti della Nuova Zelanda, altro non so. Nella giornata dedicata ai libri, lei viene intervistato dal professor Bertoni, ordinario di letteratura italiana contemporanea all'Università di Bologna. E anche in questo caso voglio chiederle cosa ne pensa, perché insomma è un riconoscimento dell'importanza della sua attività in letteratura, che appunto era nata così, quasi noi la percepivamo all'inizio come un'attività secondaria, invece no. No, ma ho scritto 3 romanzi personali, innanzitutto Vacca d'un cane, il secondo Croniche Profaniche, il primo, e Cittanova Blues, il terzo. E Alberto Bertoni, che fra l'altro conosco, siamo anche amici, modenese come me, ma molto più modenese di me, perché lui ci vive ancora, ci abita ancora a Modena. E gli anche, come posso dire, tenuti come corso monografico all'università. E quindi li ho esaminati con grande attenzione. E poi, sì, a me fa piacere perché è un'attività, appunto, come lei diceva, che non era secondaria, ma che avrei voluto affrontare in maniera totale, insomma, come autore di testi, autore di romanzi, di libri, ecco. Anche se adesso ultimamente sto facendo I Gialli assieme a Loriano Machiavelli, che hanno avuto un discreto successo, un buon successo, quindi mi dedico anche alla letteratura di genere. È un filone estremamente importante nella letteratura italiana di adesso e lei lo sta frequentando con grande passione, ma anche un ottimo successo. Sì, questo è vero, ma abbiamo cominciato il terzo romanzo, appena cominciato, quindi non sappiamo ancora come si svolgeranno i fatti, stiamo lavorandoci, insomma, non so neanche quando sarà finito. Beh, la curiosità è tanta, però non le chiederò niente di più. Sono invece curiosa di sapere che impressione le fa il pubblico che ha voglia di incontrarla. Immagino che adesso, rispetto a qualche anno fa, tutti le chiedano una foto, un selfie. Che effetto le fa? Purtroppo sì. Questo è un dramma. Sono stato lunedì scorso a una presentazione di libri locali, insomma, eccetera, e ne ho contato 17 in una mezz'ora di fotografie, quindi è proprio un dramma quello delle foto, dei telefonini, adesso fotografano l'ira di Dio, insomma, quindi a volte è anche una scocciatura. Comunque mi sottopongo di buon grado alle foto, non so proprio se le facciano, se le portano su internet, queste cose, molti lo fanno, insomma. Ma così è una moda contemporanea, spero che svanisca come tante altre mode. Bologna, una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco Romagna e in odor di Toscana. Bologna per me provinciale, Parigi. Quante volte le hanno chiesto in questi ultimi mesi e anni se non ha voglia di tornare a cantare? Penso tutti i giorni. Ma no, ormai ho deciso di non cantare più perché le canzoni nuove non mi venivano, non facevo fatica a scrivere delle nuove, e quindi avrei dovuto girare sul vecchio repertorio, meglio che lo facciano altri, insomma. Lo lasciamo intanto frequentare i suoi musicisti, anche perché loro continuano con grande passione e sono bravissimi. Sì, sì. Ultimamente ho sentito anche l'Orchestra Sinfonica Toscanini di Parma, che ha eseguito arrangiamenti sinfonici appunto su delle mie canzoni, ed è stata un'esperienza molto interessante. Soprattutto devo sottolineare Avvelenata cantata da un baritono, è stato molto divertente questa cosa. Allora c'è ancora qualcosa che la stupisce, che la incuriosisce, sono contenta. Ma sì. Questa musica non le ha ancora dato tutto, qualcosa ancora si può scoprire? Ma certo, ho sentito anche arrangiamenti jazz delle mie canzoni, e quello lì insomma è stato uno strano impatto, però positivo, insomma, non negativo, ecco. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Insieme a noi c'era Francesco Guccini. Ancora un saluto da Marta Cagnola.